La morte e il disgraziato da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, luglio 2007, Roma. In suo soccorso un misero la morte chiamava notte e dì. O cara morte, o fortunata sorte, morire i mali terminar così. La morte viene all'uscio e si presenta, certissima di fargli un gran favor. Ma l'altro si spaventa e si mette a gridare: oddio, che orror! O morte, o brutta, orribile figura, va che mi fai morire di paura. Mecenate, uom di talento, si racconta che abbia detto: voi ficcatemi in un letto, pesto, monco, senza fiato e dai mali assassinato, purché io viva son contento. Per qualunque cosa accada, brutta morte cambia strada. Fine della favola. La morte e il disgraziato. Questa registrazione è di dominio pubblico.